Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, oggi parliamo di manifattura ipertecnologica, di manifattura avveniristica, ma parliamo anche di denti. Che cosa c'entrano le due cose fra di loro, vi potrete domandare? C'entrano moltissimo, perché nel giro di pochi anni le stampanti 3D faranno i denti e li produrranno, e quindi cambierà profondamente la vita delle persone, perché farsi fare le protesi sarà un processo diverso, costerà di meno, cambierà il ruolo del dentista, cambierà lo studio del dentista e anche il ruolo dell'odontotecnico. Questo dimostra una cosa che io ho cercato di spiegare molte volte durante queste trasmissioni, e cioè che la grande rivoluzione tecnologica della manifattura, la rivoluzione che riguarda l'internet delle cose, che riguarda l'industry 4.0, che riguarda la manifattura additiva o stampanti 3D o le nanotecnologie, non è solo una questione di laboratori o una questione che sta nelle fabbriche o una questione che riguarda gli addetti ai lavori. No, è una cosa che cambierà profondamente la vita di tutti noi nella vita di tutti i giorni, perché le stampanti 3D sono una cosa un po' per specialisti o per creativi nella testa della gente, invece non è così. Le stampanti 3D faranno oggetti di uso quotidiano e cambieranno anche il nostro modo di vivere, perché porteranno a una personalizzazione di massa di tutte le cose, in quanto con la stampante 3D si possono fare infinite variazioni dello stesso prodotto. Tra l'altro, il 2016, secondo Gartner Group, sarà l'anno della decuplicazione delle stampanti 3D. Nel 2015 ne sono state vendute 217.000 in tutto il mondo. Nel 2016 ci saranno 2,3 milioni di stampanti 3D in tutto il mondo. Dunque, insomma, oggi parliamo di industria dentale. Peraltro l'industria dentale, che è quella che fa i denti, le protesi, le sedie dei dentisti e tutte le attrezzature, è un primato italiano, una cosa che pochi conoscono, ma in Italia l'industria dentale fa oltre 700 milioni di euro, 744 milioni di euro, il 62% è export, e c'è stata una forte crescita, perché nel 2009 erano 630 milioni e nel 2014 744 milioni, una crescita di quasi il 20% in 6 anni. Di tutti questi argomenti ne parliamo con Gianfranco Berruti, che è un consigliere di amministrazione di Expo Dental Meeting. Buongiorno. Buongiorno. E che ha anche un'azienda di industria dentaria che si chiama Marior Dental, e con il professor Carlo Mangano. Buongiorno. Buongiorno. Che è un dentista, ma è anche un professore universitario, uno studioso di implantodontologia dentale, ed è stato uno dei primi a raccontare, a studiare le frontiere delle nuove tecnologie. Ma cominciamo da Berruti. Allora, dicevamo stampa 3D e denti. Che cosa significa? Beh, innanzitutto la stampa 3D o stampa additiva è una straordinaria tecnologia di produzione che si sta affermando in questi anni, che sta permettendo di superare in tutti i campi, non solo in quello dentale, quelli che erano i limiti dei metodi di produzione precedenti, come la fresatura o la modellazione oppure la fabbricazione. Di dentale si parla con molto interesse perché proprio questo tipo di tecnologia avrà delle applicazioni, e sta già avendo e avrà in futuro delle applicazioni molto importanti nel settore dentale, anche per la tipologia dei prodotti, dei manufatti protesici che sono tipici del nostro settore, che sono dei manufatti che richiedono una altissima precisione e una altrettanto elevata personalizzazione, e sono quindi delle produzioni che assolutamente sono diverse dalle grandi produzioni di massa, e che proprio le tecnologie di stampa additiva permetteranno di realizzare in maniera, con una qualità sempre migliore, una precisione sempre più elevata, oltre che, ecco, con costi. C'è uno studio che minori. Afferma che entro 10 anni il 60% delle protesi dentali di tutti i livelli sarà fatto da stampanti 3D. Se io ho capito bene, quello che fa la differenza rispetto a prima è che non c'è più il prototipo costruito manualmente, ma il processo viene gestito dal software. Sì, diciamo che c'è tutto un ciclo digitale che parte dalla presa dell'impronta della bocca del paziente e che arriva alla realizzazione tramite dei software di CAD, CAM, alla realizzazione del manufatto protesico finito. Si tratta quindi di una fabbricazione che rivoluziona molti ruoli, anche quello dell'odontotecnico, che prima era, diciamo, un artista che doveva scolpire praticamente un dente sulla base delle informazioni che gli arrivavano dall'odontoiatra, e adesso invece si deve anche lui informatizzare e quindi utilizzare diversi strumenti per ottenere però lo stesso risultato, anzi un risultato migliore perché più preciso. Ma quali sono i vantaggi? E per chi? Per il paziente, per i dentisti, per gli odontotecnici, per l'industria che producono le stampanti 3D? Beh, i vantaggi sono molteplici e coinvolgono tutti gli attori di questo sistema del mondo del dentale, perché ovviamente per quanto riguarda i pazienti si potrà ottenere dei risultati di qualità migliore con costi e tempi anche ridotti, quindi questo sarà un beneficio di cui già adesso in parte si riesce, certo, a vedere risultati. Comunque, quello che ci interessa, perché questa è una trasmissione che parla di fabbriche, è il discorso della stampa 3D e il discorso della manifattura additiva, che tra l'altro, secondo una recente ricerca di Prometeia firmata da Alessandra Lanza, le aziende virtuose, le PMI virtuose, grazie alla manifattura additiva possono arrivare addirittura a raddoppiare produttività e utili, perché la manifattura additiva si fa generalmente mettendo assieme polveri di metallo che poi vengono fuse da un laser. Non è come la manifattura tradizionale che agisce per sottrazione, quindi non ci sono scarti, non è necessario fare delle scorte di magazzino, non è necessario buttare via niente, perché poi tutto si rifonde, si recupera, quindi è anche più ecologica, più efficiente e più compatibile con l'ambiente, ma al di là di questo permette ai migliori di essere più redditivi. Quindi in pratica è una situazione in cui non è detto che le piccole e medie imprese o chi non ha grandi dimensioni venga penalizzato, anzi chi ha piccole dimensioni con la manifattura additiva, se è in grado di dare un elevato valore aggiunto in termini di qualità e di tecnologia, può avere la meglio anche sui giganti. Comunque, sulla manifattura additiva, ecco una scheda. Secondo Gartner Group, il 2016 sarà l'anno delle stampanti 3D, che nel mondo si decuplicheranno. La previsione è infatti di 2,3 milioni di macchine vendute rispetto ai 217.000 del 2015. Questo boom fa parte della gigantesca rivoluzione in corso nel mondo della manifattura, che comprende oltre alle stampanti 3D anche l'Internet delle cose, l'Industry 4.0, la robotica diffusa e le nanotecnologie. Ma che cosa sono esattamente le stampanti 3D? Rispetto alle tradizionali stampanti a due dimensioni che tutti conoscono, la differenza è sostanziale. Si passa dalla creazione di documenti alla creazione di oggetti. Questi oggetti vengono prodotti tramite la sovrapposizione perfetta di strati di polimeri condensati di varia natura, in grado di aggregarsi per formare vera e propria materia solida. Spesso l'aggregazione avviene tramite laser. Il risultato è la realizzazione di una figura reale che rispetta tutte e tre le misure della figura virtuale, precedentemente realizzata al computer. Per essere precisi, invece che di stampa 3D, si dovrebbe parlare di manifattura additiva. La manifattura tradizionale ha sempre funzionato per sottrazione dal pieno, con tecniche come la tornitura e la fresatura. L'additive manufacturing, in italiano manifattura additiva, ribalta questa prassi. Gli oggetti vengono realizzati nel posto in cui servono e la fabbricazione avviene generando e sommando strati successivi di materiale. Una rivoluzione. Con la manifattura additiva c'è meno bisogno di trasporti, di merce depositata in magazzino e dei relativi costi, di distributori e di intermediari commerciali di vario tipo. Il rapporto è diretto fra chi ha progettato l'oggetto e chi lo compra. Allora, professor Mangano, questo studio digitale come sarà? Beh, sicuramente è un qualcosa che ancora da molti non è stato realizzato, ma è un qualcosa che già è attivo e sicuramente dominerà il futuro. È uno studio in cui il professionista e i suoi collaboratori, compreso l'odontotecnico, potranno, in un arco di tempo molto limitato e ben preciso, realizzare le terapie, e questo significa anche per il paziente una riduzione di tempi, oltre che di costi. Logicamente l'ausilio di alta tecnologia, di macchine, di attrezzature che aumentano enormemente la precisione aiuteranno tutti i professionisti e gli addetti ai lavori. Ci saranno anche gli scanner. In pratica, invece di avere il medico con la lucina che ti guarda in bocca, ci sarà uno scanner che ti esplora tutta la bocca con maggiore precisione. Senz'altro, questo è forse una delle innovazioni più tecnologiche e anche più gradite dal paziente, perché la presa dell'impronta è sempre un atto che è un po' fastidioso, insomma mal gradito dal paziente. Rilevare un'impronta con una telecamera intraorale significa assolutamente rendere meno invasiva, più gradevole, più efficace, più immediata e più precisa l'opera di rilevamento di un'impronta. Bene, ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Ma sei sicuro che non fa male? Ma no, è una stupidaggine. Che è sta roba? Questa è per prendere lo stampo per vedere dove manca il dente. Non ti preoccupare. Stringi. Stringi. Oh. Guarda a destra. Guarda a sinistra. Guarda per aria. Mettete questo. Maria Benedetta del Ringoronete, che hai combinato qua? E io niente. Dove hai preso l'impasto? È lì, nel secondo cassetto. Quello è cemento armato! Ecco, siamo di nuovo in linea. Si parlava di denti e di impasti dentali e quindi, ecco, c'era un simpatico brano di Lino Banfi che ho fatto mettere perché prima col professor Mangano dicevamo che non si prenderà più l'impronta, ma ci sarà lo scanner intraorale e poi le protesi verranno prodotte da stampanti 3D. Altri cambiamenti, professore? Beh, i cambiamenti riguardano un po' tutta l'odontoiatria digitale, un po' tutte nei vari aspetti di quello che è il mondo odontoiatrico, quindi ci saranno tutte le discipline coinvolte dall'ortodonzia alla conservativa, alla protesi, alla chirurgia. Se vogliamo fare un esempio in quest'ambito, oggi la chirurgia può essere programmata esattamente al computer, poi eseguita. Insomma, il dentale è un sottosistema del farmaceutico e del medicale in generale, che sono tra i settori più impattati dalla rivoluzione della manifattura additiva, se non forse i più impattati. Sicuramente, soprattutto se vogliamo riparlare di stampanti 3D, avranno un ruolo importantissimo proprio in tutte queste applicazioni e la finalizzazione sarà una terapia personalizzata, apposta, customizzata per il paziente, quindi non più una terapia che deve essere, diciamo, tradizionale, che deve essere portata avanti manualmente, ma guidata sempre da un'accurata diagnosi, da una pianificazione, da macchine e attrezzature con estrema precisione, guidate sempre professionalmente dall'operatore, dal professionista o dall'odontotecnico. Ecco, tutte queste attrezzature avveniristiche si potranno vedere a Expo Dental Meeting, una manifestazione che si tiene a Rimini dal 19 al 21 maggio e dove ci saranno tutte queste cose strane tecnologiche che possono interessare gli addetti ai lavori, cioè i dentisti e gli odontotecnici, oppure i pazienti, ma anche chi è interessato alla tecnologia, alla meccanica in quanto tale. E poi che altro si vedrà lì a Expo Dental, dottor Berruti? Beh, diciamo che Expo Dental Meeting è un po' la fiera di riferimento di tutta l'industria dentale italiana. Industria dentale che, ricordo, è tra le prime al mondo per la qualità e la varietà dei servizi e dei prodotti che vengono offerti. Quindi di fatto è un po' la vetrina del Made in Italy ed è inoltre un evento molto importante perché, al di là della fiera merceologica, abbiamo organizzato una serie di manifestazioni e di congressi scientifici e culturali molto interessanti che permetteranno di fare formazione e di fare il punto su quello che è lo stato dell'arte. Per esempio, che cosa ci sarà? Per esempio, sempre per parlare, come abbiamo detto prima, di odontotecnici, ci sarà un congresso degli odontotecnici incentrato sul tema della ceramica. Avremo poi, appunto in collaborazione con il professor Mangano, invece un evento che farà un po' il punto sullo stato dell'arte e delle tecnologie digitali che già oggi vengono applicate in campo odontoiatrico e su quelle che saranno le evoluzioni future. E poi avremo anche un congresso scientifico con dei nomi eccellenti dell'odontoiatria italiana. Avremo il professor Testori insieme al professor Zucchelli che faranno un congresso scientifico incentrato sui temi legati all'implantologia, coordinati dal professor Aldo Bruno Gianni. Ecco, l'industria dentale italiana, l'ho già detto in apertura di trasmissione, ma lo ricordo qui anche perché magari alcuni ascoltatori si sono collegati adesso, è veramente importante. Parliamo di 3.300 addetti per un fatturato di 744 milioni di euro, il 62% dei quali è costituito da export. I settori più forti sono le apparecchiature per dentisti, che fanno 182,8 milioni, i prodotti di consumo per dentisti, 166,5 milioni, e poi c'è la radiologia che vale 68 milioni. Ma oltre a questo, noi italiani siamo bravissimi nel fare le macchine e nel fare le macchine che producono le macchine. Che cosa vuol dire questo? Che il boom del 3D, che come ho già detto e ripeto volentieri, nel 2016 decuplicherà, farà lavorare anche tante imprese meccaniche eccellenti. Io ho, per esempio, trovato il caso di un'azienda che non mi dispiacerebbe invitare in trasmissione una delle prossime volte, si chiama Sisma, è un'azienda che è in provincia di Vicenza e che produce proprio macchine per fare le protesi. La sua macchina si chiama MySynth, serve per stampare le protesi dentali, ma la stessa identica macchina può venire utilizzata per produrre merci di tutt'altro tipo, come i gioielli, le catene e i prodotti meccanici, perché quello che conta è il software. Poi, cambiando il software e cambiando il materiale che viene solidificato dal laser dopo essere polvere, si può fare qualsiasi cosa. Il boom del dentale digitale darà a Sisma una spinta incredibile. Noi italiani siamo bravi a fare questo, siamo bravi a fare le macchine e siamo bravi a fare le macchine che producono le macchine. Questo è un vanto del Made in Italy e del nostro punto di forza. Tante volte veniamo ricordati per essere un paese di food, un paese di moda, un paese di fashion. Non è vero, noi siamo soprattutto un paese di industria meccanica, che è il nostro comparto principale. Non trova, dottor Berruti? Sono assolutamente d'accordo, anzi devo dire proprio a conferma di tutto ciò che anche nel mio lavoro viaggiando all'estero ogni giorno mi chiedono appunto se i prodotti che cerchiamo di vendere sono realizzati in Italia, proprio perché questo è ancora sinonimo di alta qualità e quindi è un vantaggio, diciamo, che viene riconosciuto ancora nel mondo alle aziende italiane. Ecco, lei dice che viaggia perché viaggia con la sua azienda che si chiama Major Dental. Sì. E produce denti sintetici, soprattutto denti sintetici per le dentiere, nonché paste dentali e paste per l'impronta. Sì, la mia azienda, l'azienda di famiglia, è nata nel 1960 come fabbrica di denti appunto per le protesi mobili, quelle volgarmente chiamate dentiere, e poi si è ovviamente sviluppata e ha ampliato la gamma di prodotti. Devo dire che ancora adesso i denti che fabbrichiamo, che produciamo in Italia, sono venduti in tutto il mondo. Noi distribuiamo i nostri prodotti in oltre 100 paesi e in alcuni siamo leader di mercato, come ad esempio in Thailandia, in Asia. Tra l'altro la cosa interessante è che questo è un business nel quale non contano le dimensioni, perché non ci sono economie di scala, in quanto la gamma di denti che si fa è diversissima. Sì, ovviamente, come detto, tutti i protesi, i manufatti protesici del settore dentale devono essere personalizzati a seconda del paziente, quindi anche nel caso di questo prodotto, i denti che poi vengono utilizzati per le dentiere, esiste una gamma ovviamente limitata, ma di colori e di forme che devono essere combinate insieme a seconda della tipologia dei pazienti. Ecco, torniamo al professor Mangano. Lei farà due relazioni a Expo Dental in cui parlerà della rivoluzione digitale nell'ambito dentale. Ci può solo anticipare che cosa dirà? Sì, il nostro sarà un racconto della storia del digitale che sarà dimostrato contemporaneamente dalle macchine che saranno in funzione. Quindi daremo una visione un po' generale di quelle che sono le applicazioni di queste attrezzature nell'odontoiatria in particolare, e quindi tutto il flusso di lavoro digitale che porta da un'acquisizione intraorale con delle telecamere dell'impronta fino alla realizzazione della protesi definitiva per il paziente. Ma com'è che un dentista come lei si è interessato di macchine? Sembra un interesse che dovrebbe essere più di un meccanico o di un softwareista. Beh, diciamo che nel nostro mondo, quando ci si occupa di chirurgia o di protesi, abbiamo sempre una componente di meccanica o biomeccanica o di architettura che sta nel progettare, nel capire quali sono i materiali migliori da applicare per la salute del paziente. Le faccio un esempio rapidissimo. I materiali o i biomateriali che vengono utilizzati per sostituire l'osso sono materiali di sintesi, e oggi noi possiamo, grazie ai software e alle stampanti 3D, progettarli esattamente nella loro macro microstruttura, stamparli e quindi poi posizionarli guidati nell'osso. Ecco, cerco di spiegarla in altri termini per gli ascoltatori. Mentre prima anche per l'ambito chirurgico, lasciamo perdere per un attimo il dentale, c'erano le protesi fatte in modo generico standard, da produttori di protesi standard, quindi le anche eccetera, adesso uno che si rompe l'anca ha bisogno di una protesi, viene fatta una diagnosi e poi gli viene disegnata al momento la protesi dell'anca su misura. Esattamente, si parte da un attacco, da un esame di acquisizione di immagini, anche quello che viene processato con opportuni software, si fa un'esatta diagnosi, si modella la protesi esattamente sul difetto del paziente o sulle parti da sostituire, e la si stampa, la si produce ed è customizzata, fatta apposta per quel paziente e per nessun altro. Beh, nel benessere e nella cura mi sembra un importante passo avanti. Assolutamente, assolutamente. È un po' la proiezione futura, la personalizzazione delle terapie a 360 gradi. Infatti la stampa 3D, la rivoluzione della manifattura additiva, vuol dire personalizzazione di massa e prototipazione. Ma il Servizio Sanitario Nazionale, professor Mangano, come deve comportarsi rispetto a questa rivoluzione? Ma credo che non potrà fare a meno di adeguarsi a queste nuove tecnologie, in parte lo sta già facendo, alcune di queste protesi sono già previste e inserite nei piani di trattamento. Ovviamente ci sarà da adeguare ancora tantissimo, perché sicuramente il progresso tecnologico è talmente rapido che la burocrazia fa sempre una certa difficoltà. Ma soprattutto ci vorranno maggiori investimenti? Sicuramente maggiori investimenti per un maggior risparmio nel tempo delle terapie tutte in genere, perché se personalizzate sicuramente significa costruire apposta per quel paziente in quel momento e in quel contesto, e non dover avere una serie di... Ecco, il tempo è tiranno. Vuole aggiungere qualcosa, dottor Berruti? Beh, per concludere non mi resta che invitare tutti quelli che sono interessati alla stampa additiva nel settore dentale e che operano in questo settore direttamente o indirettamente a visitare la nostra manifestazione che quest'anno si terrà a Rimini dal 19 al 21 maggio e che si chiama Expo Dental Meeting. Dov'è che si trovano i riferimenti? Su quale sito internet? Ma abbiamo il sito www.expodentalmeeting.com, dove è possibile ritrovare tutte le informazioni e perfetto, i riferimenti. Forse torneremo ancora ad occuparci di questa materia. Intanto ringrazio il professor Mangano. Grazie a voi per l'ospitalità. E il dottor Berruti. Grazie. Arrivederci, a domani.